Rodolfo, o meglio Rodolphe, di Gerolstein è stato a lungo uno dei personaggi più celebri d'Europa. Oggi come oggi la sua fama è forse appannata, ma meno di due secoli fa il suo nome correva su tutte le bocche. Le sue imprese appassionavano popolani e borghesi senza distinzione di classe e offrivano spunto alle analisi degli intellettuali. Persino Marx ed Engels, che di solito si occupavano d'altro, vi dedicavano un passaggio della Sacra Famiglia. E anche se si trattava ostensibilmente di un nobiluomo tedesco, Gerolstein, la cosa non impediva che tanta popolarità inquietasse le polizie dell'intero continente, timorose che il suo esempio potesse mettere delle idee strane in testa a qualcuno, che è un onore non da poco per quella che in fondo era soltanto una figura della narrativa popolare. Rodolfo, in effetti, era ed è un personaggio di carta, è il protagonista dei Misteri di Parigi di Eugène Sue, uno dei primi romanzi popolari diffusi tra il 1842 e il 1843 secondo la formula del feuilleton, come a dire in appendice ai quotidiani. Secondo i nostri criteri si tratta di un personaggio abbastanza bizzarro. Principe sovrano del Granducato tedesco di cui porta il nome e che ha dotato, diremmo noi, di una legislazione di avanguardia, di invidiabili servizi sociali, è tuttavia riluttante a starci. Nel Palazzo Vito non risiede mai. Per motivi che la trama solo dopo parecchio si deciderà a chiarire, preferisce vivere a Parigi. Anzi, nei bassifondi di Parigi, nei quali suole aggirarsi nelle ore notturne, travestito da operaio, allo scopo di soccorrere miserie, redimere anime e vendicare delitti. Non è esattamente un calco del suo quasi contemporaneo Cavalier de Pen, che anche lui era solito battere Parigi di notte in cerca di delinquenti da punire, perché è difficile che si conoscesse Poe. Ma rappresenta con lui e con l'attore dei Tre Moschettieri uno dei primi esemplari di quello che Umberto Eco, già nel titolo di un suo volume di saggi, definiva il superuomo di massa. Oddio. La materia può non appassionare chi non nutra un preciso interesse per la genesi del romanzo popolare contemporaneo, ma è strano, lo ammetterete, come certi modelli ogni tanto si ripropongono. Non so voi, ma a me quell'abitudine di andarsene in giro a un travestì di notte a scopo di redenzione sociale ha richiamato irresistibilmente alla mente una recente intervista della sindaca di Milano. Anche la signora Moratti, lo ha dichiarato al Corriere domenica scorsa, ama rendersi conto di persona dei problemi su cui intervenire. «Io sono in mezzo alla gente molto più di quanto non si sappia», ha detto un'intervistatrice. «Ho viaggiato in metropolitana. Ho mangiato in una mensa scolastica, ho incontrato le guardie carcerarie, le casalinghe, gli ospiti dell'Istituto dei Ciechi. E sin qui ci muoviamo in un campo, diremmo, di doveri istituzionali, no? Ma il colpo lassù arriva subito dopo, soprattutto ho visto i posti critici della città, quasi sempre di sera e di notte. Ovviamente mi muovo in incognito, non annuncio il mio arrivo, anzi mi camuffo, in modo da non essere riconoscibile, scelgo i posti più degradati per capire come possano essere migliorati. È un bel esempio di come la realtà, o quello che per realtà si fa passare, superi la fantasia. Rodolfo, in fondo, oltre che ricco e granduca, è un pezzo di Marcantonio perfettamente in grado di cavarsela nelle situazioni pericolose. Alla sua emula di oggi, quattrini e titoli non fanno difetto, ma è pur sempre una fragile donna di mezza età, cui chiunque perdonerebbe una certa qua riluttanza ad affrontare il popolo dei bassifondi. E invece no. La intrepida ha sfidato la stazione centrale, si è spinta in via Novara, in via Imbonati, in via Porpora, in via Restelli. E mentre il principe di Gerolstein poteva agevolmente mimetizzarti trasferendosi da operaio, perché allora di operai ce n'erano tanti, è difficile immaginare come si possa camuffare oggi donna Letizia. Da operaia certamente no, perché è una tipologia quella che nella Milano notturna e diurna di oggi risalterebbe più del carbone sulla neve. Nell'intervista sta sul vago, naturalmente. se no verrebbe meno l'indispensabile incognito. Ma il campo delle ipotesi che possiamo fare non è poi così vasto, Potrebbe essersi da punk, forse, con o senza cani al seguito, o da ragazzotta dei centri sociali, tutta piercing e tatuaggi, o da extracomunitaria addetta alle pulizie notturne. Difficile trovare in giro molte altre figure femminili nel deserto della Milano notturna, almeno al di fuori delle aree dei locali tipo Brera, il Sempione, il Ticinese e simili, e anche punk, ragazzotte ed extracomunitarie, in via Novara, in via Imbonati, sarebbero guardate, ne sono sicuro, con un certo sospetto. E che a pensarci, c'è un altro problema. La Parigi del Sud era anche di notte un carnaio, un formicolare di tipi umani in mezzo ai quali non doveva essere difficile scomparire. A Milano, sempre a parte le zone dei locali, dove la nostra potrebbe eventualmente esibirsi come venditrice di fiori, a Milano di notte non c'è in giro nessuno. Anche la stazione centrale, tutto sommato, non offre grandissime occasioni di incontri. Sì, è vero, lei, la sindaca, si preoccupa soprattutto di sicurezza e alcuni di quei posti di notte sono meno sicuri che di giorno, anche se restano molto al di sotto del livello di pericolosità di altre metropoli europee. Ma una volta stabilito che lì c'è un problema di quel tipo, c'è proprio bisogno di andare a indagare di persona. Di notte, in fondo, la città non rivela il suo aspetto peggiore. Chi ha una casa generalmente ci si rinchiude e chi ne è privo sparisce, almeno in via provvisoria. Il traffico è più fluido, l'inquinamento minore, i mezzi pubblici, pur se un po' scarsini, non sono affollati e soprattutto il buio ingoia e pietosamente nasconde gli orrori architettonici, le nefandezze urbanistiche, gli scempi pubblicitari, gli innumerevoli abusi di cui muore grazie all'opera della sua classe dirigente la nostra città. Forse la signora Moratti, travestita o meno, farebbe meglio frequentare Milano di giorno. È nel tran tran delle ore di punta che si coglie la quotidiana difficoltà del vivere, la faticosa sgradevolezza che ormai contraddistingue una città nota un tempo per essere ospitale e generosa. È di giorno che i diseredati si affollano ai semafori per esibire le proprie mutilazioni, che si notano le saracinesche abbassate, che ci si accorge del degrado e della sporcizia dei quartieri e si può riflettere sul relativo contrasto con le isole luccicanti del centro. Ed è durante l'orario di lavoro, si capisce, che ci sarebbe soprattutto bisogno di servizi efficienti e diffusi, in grado di facilitare la vita di quei milioni di persone tra residenti e pendolari che qui si affollano per produrre la ricchezza di cui godono i ceti privilegiati. Non è neanche necessario, per accorgersi di tutto ciò, mangiare nelle mense scolastiche e viaggiare in metropolitana. Il problema delle mense è che costano troppo. E quello del metrò è che ce ne vorrebbero 6 o 7 linee in più per fare una rete degna di una grande città europea, ma è difficile che la sindaca non lo sapesse prima ancora di venire eletta. Per cui può andare anche in taxi se vuole, ma senza scordarsi di fare qualche rapido calcolo mentale su tempi di percorrenza e tariffe. E può benissimo farsi ogni tanto un panino in uno dei bar in cui si rivolgono i milanesi in pausa pranzo, riflettendo, se nella calca ci riesce, sul rapporto qualità-prezzi. O meglio ancora, può starsene nel suo ufficio, con le tende abbassate per non essere offesa dall'altra parte della piazza dalla vista dello scempio che il suo predecessore ha fatto della scala, a riflettere, come suo dovere, sui dati che certamente la macchina comunale gli sottopone ogni giorno. Le ronde notturne le lasci ai bei tenebrosi del romanzo popolare. Un ruolo che per tutta una serie di ragioni non fa decisamente per lei. E in quelle opere gliene toccherebbe piuttosto un altro, non so, quello tutt'altro da disprezzare della Belle Dame sans Merci. E su di esso si potrebbe misurare con profitto, cercando ben inteso di non fare la fine della perfida Milady e di non ricordare troppo da vicino il modello di Rodelia Desmonts.